L'insegnamento del regno dei cieli. Parte 1. File audio 2. Capitolo Le cinque fasi del liberatore. Paragrafo 2. Yeshua venne prima di Mosè. Com'è possibile? Te lo spiegherò in modo profondo in questa lezione. Hai bisogno di una comprensione profonda di questo, altrimenti non potrai capire quello che ho scritto o che scriverò. Il suo nome corretto è Yeshua. Vedrai che tutto si confà alle forze di tutte le lettere del nome in cinque fasi. Osserva ancora una volta la prima figura. Yeshua è Keter. Moshe è Dat, la linea di mezzo. La luce scende sempre tramite la linea di mezzo. Io ho scritto nel disegno Yeshua da Nazareth. Moshe, Shimon Bar Yochai, l'autore dello Zohar, Yitzhak Luria o Ari. E l'ultimo è Mashiach, Messia, Messia. Il liberatore. In questo si vede la discesa dell'intera luce, tutte e cinque le fasi dal regno dei cieli fino al nostro mondo. Esse sono i kilim della linea di mezzo, sia nel generale sia nel particolare. In questi kilim entra la luce. In quale kilim la luce entra per prima? Naturalmente in Keter. Persino nel generale, nell'umanità. La luce arriva prima in Yeshua, l'alto Keter. Non c'è altro modo. La luce arriva sempre tramite la linea di mezzo. Prima la luce entrò in Yeshua, poi discese in Mosè. Prima arrivò la luce Nefesh, la luce più bassa nel Kli Yeshua. Il Kli Keter. Non importa dov'è il Kli Keter, rappresenta sempre la forza di Yeshua. Scolpiscilo nel tuo cuore e non solo. Resta concentrato perché quello che stai leggendo qui non si trova da nessun'altra parte. Quello che vedi qui ti farà comprendere quello che stiamo facendo. La domanda è: perché diciamo che Yeshua è il primo, sebbene vediamo che in ordine cronologico venne dopo Mosè? Persino Paolo disse che lui era prima di Mosè. Ma Paolo non poteva spiegarlo perché non aveva alcuna conoscenza dei Sfirot, la cui rivelazione arrivò dopo. Per questo motivo lui non poteva spiegare chiaramente perché Yeshua venne prima di Mosè. Non poteva spiegarlo, ma lo sapeva in maniera intuitiva. Gli mancava l'informazione dei Sefirot. Ma noi l'abbiamo. E tu vedrai quanto sia semplice e geniale. Devi sapere che tutto quello che è divino è semplicemente geniale. Al contrario di quello che è intellettuale, che è invece molto complicato. E quest'ultimo è il destino dell'essere inferiore. Solo dopo che Mosè ricevette la Torah, la manifestazione di Yeshua venne qui sulla terra. Ma perché cronologicamente Yeshua venne dopo Mosè? Mentre noi diciamo che Yeshua è prima di Mosè. Approssimativamente, Yeshua venne qui 2000 anni fa, durante il periodo della fine del secondo tempio. In un certo senso, la ricezione della Torah avvenne molto prima. Com'è possibile? Per chi sta imparando Kabbalah da molto tempo, è semplice darsi una risposta perché sa già molto dei Sfirot. Come possiamo spiegarlo? Naturalmente dal punto di vista spirituale. Tu già sai che tutto è costituito da 10 Sefirot, o in altre parole, 5 fasi, 5 Kilim. Quando l'umanità fu pronta per ricevere l'alta luce, la luce entrò prima nel Kli Yeshua, l'Alto Keter. Non c'è altra possibilità per l'alta luce che entrare nel Kli più fine. E questo è Keter della linea di mezzo. In questo modo, la luce fu rivelata per la prima volta tramite il Kli Yeshua. Questa è la luce Nefesh. Poi l'alta luce arrivò nel Kli di Mosè. La luce Nefesh discese nel Kli di Mosè tramite Da'at della linea di mezzo, mentre la luce Ruach entrò nel cli Yeshua. Quando parliamo del cli Keter, sappi che questo è un cli con la qualità di Yeshua, il Sefirah Keter. Come corrisponde questo al nome di Yud-Heh-Vav-Heh, che pronunciamo Havaya in un altro ordine? È il Kli Keter, la lettera Yud? No, il Kli Keter o Yeshua è il punto della lettera Yud del nome Havaya o del nome Hashem. Il secondo cli, la lettera Yud del nome Yud che Yud Hei Vav Hei, è Moshe, è la forza di Moshe. È il cli Dat perché Dat è nella linea di mezzo, ma in un certo senso è come Chochmah, lo Yud del nome Yud Hei Vav Hei. Il cli Tiferet o Shimon Bar Yochai. È la prima lettera Hei del nome Yud Hei Vav Hei. Il Kli Yesod o Yitzhak è la lettera Vav del nome Yud Hei Vav Hei. È il Kli Malchut o Mashiach, Messia. È la seconda lettera Hei del nome Yud Hei Vav Hei. Ogni oggetto spirituale ha quattro fasi. In un certo senso tutto è nel nome Yud Hei Vav Hei, che pronunciamo Havaya. In tutto vi è Havaya. E nel nostro caso Havaya è nella linea di mezzo. Ti ho già dato un indizio a proposito di Yeshua, che è la forza del punto della lettera Yud. E la forza di Moshe è lo Yud. Ma come possiamo vedere da questo che Yeshua è prima di Mosè? Pensaci. Pensa allo Yud e al punto dello Yud. Qual è la lettera più piccola dell'alfabeto? Il punto dello Yud non è una lettera. La più piccola manifestazione della luce qui sulla terra è Yud. In questa piccola lettera è presente la Vyut della nome Havaya. La forza di Havaya è presente qui nello Yud, ma il punto dello Yud non è una lettera. Fai attenzione, perché quello che ti sto dicendo è assolutamente unico e non si trova da nessun'altra parte. Non c'è un documento, articolo, un papa, un apostolo o un santo che abbia le parole giuste su questo. Neppure un cabalista potrebbe esprimerlo a parole. Ma quello che sto per dirti è l'unica e vera salvezza. Che cosa è l'indicazione del punto degli udi? È la connessione, perché Keter è sempre il rappresentante del creatore della luce. Keter ha in sé due parti. Una superiore e un'inferiore. La parte superiore di Keter è la scintilla del creatore Nitzuzbore. Questa si manifesta nel nome Yeshua. Come lo chiamiamo? Figlio di Dio. Ora vedi che questo indica la parte superiore di Keter. Espresso in termini religiosi, questo è il Figlio di Dio. È l'espressione della parte superiore del più alto Keter Yeshua. E in Kabbalah si chiama Nitzuz Boreh, la scintilla del creatore in Keter. Solo in Keter c'è questa scintilla. In tutti gli altri sferot non esiste. La parte inferiore di Keter si chiama Nitzutz Nivra, la scintilla della creazione in Keter. Questo è un altro nome di Yeshua. Quando leggi il Nuovo Testamento, vedi che si scrive di Yeshua che è il figlio dell'uomo. Due nomi. E chi sa la differenza? Perché Yeshua aveva due nomi apparentemente opposti. Non ci fu e non c'è alcuna persona o santo che sa questo. Solo in Kabbalah lo sappiamo. Non mi sento orgoglioso, ma quello che sto per dirti è unico. Per la prima volta sarà manifestato per tutti. Quello che sto per dirti è per ogni persona, e non si trova né in America, né in Israele, né a Roma. È dato a me. Io ho il permesso di rivelarlo e tramandarlo. Non faccio conferenze perché non posso parlare da me stesso. Lo posso tramandare solo in piccoli gruppi come adesso, a individui. Ho trovato la salvezza e la passo a te. In vero, ho trovato Yeshua, la salvezza assoluta. Proprio come fece Yeshua e grazie a lui. Lui è diventato il mio più grande maestro. Ho ricevuto la salvezza solo nella mia condizione speciale. Yeshua potrebbe portare la salvezza a tutto il genere umano, ma ogni persona ha questa forza speciale e particolare. Ora tu sai di averla pure. Quindi fai attenzione e cogli l'occasione. Keter è diviso in due parti e Yeshua le ha dentro di sé. Lui ha la parte superiore di Keter, il figlio di Dio. Grazie a questa parte, Yeshua si distinguerà dalla gente. Ora puoi vedere che in verità Yeshua si erigeva sopra l'umanità grazie a questa qualità, la sua parte superiore di Keter. Perché Keter ha due parti? Una è connessa con il creatore e l'altra con la creazione. Altrimenti come potrebbe la creazione ricevere la luce? La creazione è il desiderio di ricevere, mentre la luce, il creatore, è il desiderio solo di dare. E dentro Keter ci sono queste due parti. È scritto nel Nuovo Testamento il figlio dell'uomo. Ora sai che questo riguarda la parte inferiore di Yeshua, la parte inferiore di Keter in relazione con la creazione. Ogni Keter è la forza di Yeshua. Non lottare, né dall'esterno né dall'interno, perché quando lo fai perdi la più unica opportunità di salvezza, che è intesa per tutti. Mentre leggi, resta in contatto con il tuo io interiore. E dopo, quando chiudi questo libro, puoi pensarci. E quello che pensi dipende da te. Ma mentre leggi, resta in contatto con il tuo interiore e non lottare. Le cose che accadranno sono enormi, perché riceverai qualcosa che non puoi ricevere da nessuna altra parte. Non c'è alcun posto dove puoi comprare questo. Quando si scrive Yeshua, è il figlio di Dio. Sappi che questa è la sua connessione con Ein Sof, con il Padre, con Havaya. Qual è la differenza tra la luce e il Padre? In passato non potevamo vederlo. Ma sono la stessa cosa. Ein Sof. Luce è quello che chiamiamo esistenza dall'esistenza. Dal latino existens a existens. Il padre Ein Sof incluso nell'alto Keter. Quando Yeshua parla del padre, parla dell'inclusione dell'alta luce nella parte superiore dell'alto Keter. Questa è l'inclusione del padre dell'alta luce in Yeshua. Andiamo avanti. Paragrafo 3. Che cosa portò Yeshua in questo mondo? Che cosa portò Yeshua in questo mondo? Con questo non intendo che cosa portò Yeshua nel passato, nella storia, ma qualcosa che dura per sempre. Lui portò l'insegnamento del regno dei cieli. Chi può entrare nel regno dei cieli? C'è qualcosa di più alto dell'alto Keter? Che sa cosa sia il regno dei cieli? Chi oltre all'alto Keter lo conosce? La parola cielo, cielo, nel linguaggio santo. La parola cieli, nel plurale. Perché usiamo il plurale del cielo? Perché nel linguaggio santo è scritta al plurale Shamayim. La maggior parte delle volte è tradotta come cielo. Ma in realtà significa cieli. Il significato di cieli è ciò che è sopra, quello che è fuori dai kelim. Perciò tutto quello che è esterno ai kelim. C'è la linea di mezzo. Dat, Tiferet, Yesod e Malchut. Tutti questi sono Kelim con Aviut. È impossibile per i Kelim con Aviut essere il regno dei cieli. Aviut, desiderio. Spessore. Con i kilim inferiori è possibile sviluppare il massach e tramite questo arrivare a Keter. Qual è l'insegnamento? L'essenza dell'insegnamento di Yeshua non è il Nuovo Testamento. Quando parlo di Yeshua, parlo dell'insegnamento del regno dei cieli. Malchut Shamayim. Il Nuovo Testamento descrive solo le parole di Yeshua. Il messaggio di Yeshua è incorporato nel Nuovo Testamento. Con questo intendo gli atti, le azioni degli apostoli, Tutto questo appartiene alla religione cristiana. Ed io non voglio interferire. Ho rispetto per la religione cristiana allo stesso modo come rispetto la religione ebraica. Ma io non parlo di religione. Quando parlo di Yeshua, non mi riferisco al Nuovo Testamento. Così come quando parlo di Torah non mi riferisco alla religione ebraica. Metti questo nel tuo cuore. La Kabbalah parla solo dello Spirito Santo. Il nostro compito è lasciar penetrare il nostro essere dallo Spirito Santo. Questo è il nostro compito. E non occuparci di tradizioni o altre interpretazioni terrene della divinità. Keter è il primo cli, è il più fine. Sempre. Ovunque vedi Keter, sappi che è il primo e il più fine perché Keter non ha aviut. Perciò solo tramite Keter si può entrare nel regno dei cieli. Non disse Yeshua solo tramite me si può arrivare alla luce del Padre. Quando giungi alla parte superiore dell'Alto Keter, hai raggiunto il Padre, perché il Padre è incluso nella parte superiore dell'Alto Keter. Quando Yeshua parlò di suo padre, volle significare l'inclusione della luce nel cli dell'Alto Keter. Questo è il luogo dove è incluso il padre. Lui disse pure: io faccio come mio padre. Questo è quello che faccio. Questo era possibile per Yeshua, perché era il cli, il Keter completo, non cli, il Keter completo. Lui non aveva aviut dei chilim inferiori. Per favore, fai molta attenzione a quello che stai per leggere. Leggilo con la giusta intenzione e saprai, capirai tutto sulla spiritualità. Quando Yeshua apparse per la prima volta, che luce aveva? Solamente la luce neve. Prima che Yeshua fu qui, non c'era altra luce che la luce Nefesh. Fai attenzione. Non è possibile passare la luce Nefesh perché essa è femminile. Solo quando c'è la luce Ruach si può passare la luce. Nefesh è una luce femminile e si può solo ricevere, ma non passarla. Keter è il punto della lettera Yud. Questa è la lettera più piccola. Il gli più piccolo. Solo da Yud inizia la creazione. Yeshua non era un gli, solo il punto di un gli. Perciò, prima che Mosè portò la Torah, non si poteva vedere Yeshua. Prima che Mosè ricevette la Torah, era impossibile vedere la luce Nefesh. Questa luce fu data all'umanità. Era già discesa. Ma non c'era assolutamente nessuno che potesse vederla. La luce Nefesh era già apparsa. Ma non c'era persona che potesse riceverla prima della ricezione della Torah. Questo diviene possibile solo tramite la lettera Yud. Yud è la prima lettera. Il primo progetto di un Kli per la ricezione della luce. È l'inizio della lettera Yud, è il punto dello Yud. Perciò Yeshua poteva manifestarsi per la prima volta solo dopo la ricezione della Torah, dopo la venuta di Mosè. Non solo. Lo vediamo anche in ordine cronologico che Yeshua venne dopo qualche tempo in un corpo fisico in questo mondo. Perché? Come poteva manifestarsi? Perché nella creazione vi erano già due luci. Noi diciamo che la luce Nefesh venne in questo mondo quando Yeshua arrivò, ma essa esisteva già. Solo quando Mosè portò giù la Torah, quando la Torah si manifestò, la seconda luce Ruach venne a esistere, a manifestarsi, perché la Torah è la luce Ruach. Insieme con la luce Nefesh arrivò la luce Ruach. Ora abbiamo due kilim, il kli di Keter e quello di Chochmah. Questo è il kli Daat nella linea di mezzo, che ha due luci. La luce Nefesh, che discende al kli di Mosè, e la luce Ruach, che entra nel kli Yeshua. Nel Keter. Questo è il motivo per cui Yeshua venne dopo Mosè. C'è un altro riferimento nella Torah che ci dice che l'insegnamento di Yeshua venne prima di quello della Torah. Come puoi vedere che l'insegnamento del Regno dei Cieli è sopra la Torah? Vale a dire prima della ricezione della Torah che Mosè diede alla nazione di Israele. Prima Mosè salì sulla montagna e scese con le prime tavole di pietra, che Che cosa accade a queste tavole? Mosè le distrusse. Per questo dovete risalire sul monte per ricevere le seconde tavole di pietra. Attenzione! Le prime tavole di pietra erano l'insegnamento di Yeshua, l'insegnamento del regno dei cieli. In un certo senso era molto logico che Mosè portasse giù queste tavole di pietra. L'insegnamento di Yeshua non è il Nuovo Testamento, ma l'insegnamento del Regno dei Cieli. Yeshua processò nel suo insegnamento tutto lo splendore del primo progetto delle tavole di pietra, nelle nuove cose che dice. Solo più tardi, in risposta alla sua pronunciazione dell'insegnamento del regno dei cieli, qualcuno parzialmente trascrisse come si potesse raggiungere il regno dei cieli. Tuttavia l'intero insegnamento fu scritto nelle prime tavole di pietra. Qual è il significato della rottura delle prime tavole? Questo significa che l'alto Keter doveva manifestarsi a quel punto nella fase successiva. Quello che fece Mosè fu portare giù la Torah dischiusa nel livello del Klidat. Di conseguenza, la luce doveva scendere in un altro Kilim inferiore, perché il Creatore voleva di più, non solamente Keter. Era nel piano del Creatore che infine la luce scendesse completamente da Keter a Malchut. Il passo successivo è quello di Bar Yochai, Shimon Bar Yochai, che porto giù la Torah segreta. Ma prima osserviamo attentamente Mosè. Non è detto di Mosè che era il figlio dell'uomo, né il figlio di Dio. Si parla solo del figlio di Dio o figlio dell'uomo quando si parla di Yeshua. Che si dice di Mosè? Che lui era un confidente nella casa di Hashem, di Avaya. Che cosa è la casa di Avaya? Quanti muri ha una casa? 4. Che cosa è la casa di Avaya? Le 4 lettere, Yud, Hei, Vav, Hei. Mai fare connessione con il mondo materiale. Non solo, separati da qualunque religione ti interessi, da qualunque testamento. Liberati da qualunque cosa ti tenga in prigioniero. Non ci interessano i testamenti. Il creatore non ha niente a che fare con essi, né il vecchio né il nuovo testamento. Furono il sinodo cristiano e il sinedrio ebraico a proclamare i testamenti. Certamente questo fu pure buono, ma il loro obiettivo è avere potere istituzionale sopra quello sociale, sopra la comunità, le culture e le società. Tutte cose buone, ascolta. Ascolta attentamente quello che dico. Non c'è nulla di male, ma non ha niente a che fare con la vera spiritualità. Non può salvarti. La cultura non salva. Io parlo di salvezza personale. Le chiese e le sinagoghe sono buone per l'essere esterno, per loro che sono ancora connessi con l'esterno e vogliono restarci aggrappati. Ma per la vera salvezza dell'essere umano, dimenticalo. Non possono portare salvezza perché questo è un processo individuale. Ora viviamo nell'era della venuta del Mashiach. Dobbiamo fare molta attenzione alle nostre emozioni, non lasciare che ci opprimano. Qualunque emozione provi, devi fare molta attenzione. Fu Mosè che portò giù le seconde tavole di pietra. Questa è la Torah dischiusa ed è data tramite il Kli Daat. Cosa c'è nel Kli Daat? Qui vi è destra e sinistra. Sopra e giù. In Keter non ci sono né destra né sinistra, né sopra né giù. Nell'unità più alta di Keter, di Yeshua, non vediamo né destra né sinistra. Questo è quello che mostra la Kabbalah. In Keter tutto è uno. L'essere umano e il creatore sono come uno. Ma il creatore non aveva intenzione di restare solo nel Kliketer. Era sua intenzione di portare la luce in basso, fino a Malchut, perché Malchut è la vera creazione. regno. Questo è Malchut. Questo è Malchut, la vera creazione. Keter non è ancora creazione. Lo scopo della creazione è Malchut. Tra i due Kilim ci sono serrature ed entrate. Dopo Mosè la luce discese ulteriormente tramite la linea di mezzo fino a Tiferet, che è la Torah segreta, la Kabbalah. Più in là spiegherò meglio i nomi che vedi nella prima figura. Ti mostrerò quanto sia meravigliosa, come le lettere sante siano intrecciate in questo. La fase successiva è Yitzhak-Luria. La luce doveva scendere ulteriormente fino a Yisod, che è la forza di Yitzhak Luria. Lui descrisse l'intera struttura dell'albero della vita. L'albero della vita è Zeir Anpin, così come la Torah è Zeir Anpin. Ma è la segreta parte del La segreta interpretazione della Torah, la parte interiore del Seir Anpin. Questa è la discesa della luce fino a Malchut. E l'ultimo sarà il nome del Mashiach, il Redentore.